verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Sei come il libro aperto, perché domande... fai sempre domande del cazzo. Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di spero che i cattodem abbiano il coraggio per votare no alla stepchild adoption e che numerosi grillini votino no, in modo tale che salti. Cioè se la fanno non vuole questa legge, faccia dia le dimissioni, crei la crisi di governo. Cioè se la fanno non vuole questa legge, dia le dimissioni e apra la crisi di governo. Allora sì che tutto viene messo in discussione, diversamente c'è il gioco delle due parti. Se io dovessi fare il mestiere del segretario del PD, la stralcerei. Direi, signori, noi siamo un grande partito, quasi un partito paese, non dividiamo da il paese. Che... i diritti sì, le adozioni e l'equiparazione al matrimonio. Lei... totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Tra l'altro è anche la maggioranza degli italiani che la pensa così, però vengono dalla cultura dominante, vengono indicati con disprezzo, come se fossero dei retrogradi, come se fossero dei cittadini di serie B. È una deriva, è una specie di fascismo culturale, insomma, che in Italia possiamo, facciamo fatica a rispettare gli altri. Niente, ci siamo, Don Livio è scatenato, padre Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. E come dire, da oggi alle 16.30 si vota il disegno di legge sulle unioni civili, siete contenti, così ce lo leviamo dalle scatole, in qualche modo, questa è la mia, il mio approccio, in qualche modo, non mi azzardo a fare pronostici, ma insomma, tanto c'è il super cangurum, canguri al Senato, Italia no. Che vuol dire i canguri, dai, lo sapete, c'è questo... emendamento, è definito così, super canguro, non è la prima volta che lo utilizzano, è uno strumento tecnico. Questa volta è stato portato avanti da un renziano, tal senatore Marcucci, che ha fatto il cosiddetto emendamento premissivo, cioè nella premessa c'è tutta la legge, proprio per dirla in maniera così rozza, e il che farebbe modo di fare saltare tutti gli emendamenti, accelerare le discussioni. Ma chissà se questo emendamento passa, non passa, cose che alle 6.31 del mattino vi fanno venire il mal di testa legittimamente, cari ascoltatori. Questo è 24 mattino, ma la notizia vera sul tema della stepchild adoption, o come diavolo si dovrebbe dire, la Crusca dice che bisogna chiamarlo il configlio. Anche il configlio, dai, sembra il coniglio, il configlio. L'adozione del configlio. Cos'è il configlio? Oh, l'Accademia della Crusca. La spregevole pratica dell'utero in locazione. Ecco, l'utero in locazione. Sì, sì, ne abbiamo sentite di davvero di tante e di belle. Ecco, la notizia più clamorosa, più incredibile, riguarderebbe un politico italiano, Nichi Vendola. Nichi Vendola, signori, secondo i rumors, lo scrive anche oggi Repubblica, sarebbe negli Stati Uniti col compagno canadese, tra l'altro non si capisce perché non dovrebbe essere in Canada, visto che in Canada l'utero in affitto è pratica consentita, e starebbe per... adesso il verbo, a me viene avere un figlio, non so, Adinolfi direbbe boh, comprare un figlio. Marione, Mario, tu One love. Eccolo là. One life. Sì, vabbè. Brido, incredibile. Questo è Marione che cazza, che violenta One. De... Vabbè, sentitelo, sentitelo. Sì, senti, senti. Leaves you, baby, if you don't care. C'è Bono che si ribalta su, sulla sedia. Vabbè, sulla sedia. È di mestiere, mica canto io, ragazzi. Cosa starebbe per fare Vendola? Comprare, rubare? Dai, scatenati subito. Ma se uno paga 150.000 euro e gli danno, sì, una cosa fa? Una cosa, un bambino, una cosa. Purtroppo ha trasformato quel bambino in una cosa. Se tu lo paghi 150.000 euro, evidentemente. Vabbè, ma tu ci credi a sta cosa? Cioè, secondo te è vera sta cosa? Sta... Spero di no, spero di no. È una delle pratiche più orrende che si possano compiere. Vendola si dichiara cattolico, voglio dire. Insomma, se l'idea del cattolicesimo è andarsi a far leva sullo stato di bisogno di una donna per comprare il suo bambino partorito, fare una cosa, non so se per voi è tutto normale. No, no, per me no, per me non lo è, per me non lo a è. Me pare una cosa agghiacciante. Io sono contro questa pratica, lo sai, e quindi non ho detto però, ho detto sono contro. Contro questa pratica, punto. Io sono contro questa legge, non si può reggere. Ma chi c'entra? Io ho detto sono contro questa pratica, dico dal punto di vista della cronaca, Vendola sarebbe lì, non è che do. Spero di no, speriamo. Speriamo che smentisca. Lo chiediamo a uno che torna al Parlamento, che è Antonio Di Pietro. Buongiorno Di Pietro, come sta? Non dica una fregnaccia pure lei, io non torno al Parlamento. No, questo è il Parlamento, al Parlamento si può dire tutto. Parlamento, il bar più pazzo del mondo. Buongiorno a tutti. Buongiorno Antonio Di Pietro, ci dobbiamo credere a questa cosa di Niki Vendola? Guarda, è un argomento molto serio, quindi io non ho intenzione di scherzarci. Io dico soltanto questo. Fossi io al Parlamento non avrei presentato emendamenti, quant'altro, eccetera, eccetera, perché ritengo, primo, che ci sia la necessità di questa legge, la chiamiamoci Rinna, cioè di una legge che permette di avere pari diritti a coloro che siano figli dello stesso sesso, anche se adottati e quant'altro. Sì, il problema si sta ponendo, si sta facendo tutti questi cavilli su un punto specifico, sì, l'adozione del figlio del convivente. Esatto. Ora il figlio del convivente, visto che chi lo vuole adottare è uno dei due conviventi, bene, se facciamo in modo che anche questo sul piano pratica dei diritti civili abbia gli stessi diritti civili di un figlio naturale, non mi pare che abbiamo stravolto. Non è una cosa, ma per Adinolfi, e quelli che la pensano come Adinolfi, si apre all'utero in affitto, così, no? Prima di tutto l'utero in affitto in questo momento la legge italiana lo è vietata e rimane vietato. Ma se si legittima questa possibilità di adottare il figlio del convivente, A parte il fatto che questa legge non si legittima alcunché, ognuno poi la può tirare come gli pare o non gli pare. Io personalmente mi guardo allo specchio, io sono eterosessuale, io personalmente per fare figli ho guardato in faccia mia moglie, non solo in faccia. Dopodiché se qualcun altro sente il bisogno di poter dare uno spazio di diritti a un ragazzo, anche del suo, è meglio che ci sia un ragazzo che abbia più diritti che un ragazzo che ne abbia meno. Ma pensa come il ministro Boschi, sai che il ministro Boschi ha detto la stepchild è giusta per tutelare. La configliatura, mi piace. La configliatura, l'ha detto la Crusca. Quella roba lì è giusta per tutelare i bambini. Ma per tutelare i bambini, ma anche per stare tutti insieme. Ma tanto io. ma io, guardi, lo dico ad Inolfi. Marione, allora, oggi leggiti pagina 11 del Corriere della Sera. C'è la storia di due americane, Eleonora e Liz, che hanno due figlie in America, due figlie di entrambi, per i documenti, non per te, no, ma per i documenti sì. In Italia adesso si pronuncerà la Corte Costituzionale, perché quando sono arrivate in Italia, questa cosa ovviamente non... Cioè, i magistrati sono già più avanti con sentenze di qualsiasi legge, di qualsiasi, no? Ma voglio dire, ci troviamo di fronte a una realtà in cui all'interno di una casa ci sono due persone, di cui uno è anche il genitore reale, l'altro vuole adottarlo, ma io devo stargli a guardare dentro le mutande, ma falli felice. Capito, Marione, non vuoi far felice le persone, tu, questo è... Ma quel bambino, signori miei, c'ha diritto o no a sapere da dove viene? Veramente. E lo scoprirà se vorrà. Di sapere che una mamma e un papà. Ha diritto o no il figlio di Ricky Vendola di pensare che c'è una donna che l'ha partorito senza che la legge italiana, mi meraviglio del molisano di Pietro, dell'uomo della terra, che pensa che sia legittimo che quel bambino possa essere strappato alla donna che l'ha partorito per soldi. Questo è il meccanismo che legittimi con questa legge. È un meccanismo già praticato da un senatore, ma no, a me interessa. Interessa il bene dei bambini. Posso parlare senza fare polemica? Un bambino senza mamma può avere senso? Ma può esistere un bambino senza una mamma? Di Pietro, che le interessa? Non fate polemiche, non è la piaccia questa mattina. Ma è ad Inolfi su sto tema. Fate voi. Ecco, già queste polemiche. Poiché quel bambino è nato, e poiché c'è un'anima, un corpo e la necessità di vivere, è meglio che viva con chi ti sta vicino e ti vuole bene. Se sta lì, siccome ha diritto di avere una mamma e un padre, sono convinto anch'io. Ma siccome non te l'ha avuto, tu ti ammazzo, tu sparo, non ti faccio nascere, non esiste. Ma benedetto Signore, cioè, esiste, in natura ciò avviene, gli do un diritto in più, mi toglie qualcosa a me, non mi toglie niente, gli do la possibilità a lui comunque. Comunque, cioè tuteli il bambino, capito Marione? Cioè, ormai quel bambino c'è, quel bambino c'è, anche fatto con l'utero in affitto, ma c'è. Una pratica criminale non può essere incentivata, è una pratica criminale, non può essere incentivata. Solo tu puoi voler bene il bambino, due persone che non sono... Vabbè. Ma lascia stare il volere bene, che c'entra il volere bene? Mi parla dei diritti di quel bambino. Comunque, insomma, la situazione ovviamente anche molto complicata e sono temi molto profondi. Il dato di fatto è questo, no? Giusto per saltare di palla in frasca, ma non tanto. Avete visto che c'è questa questione delle pensioni di reversibilità, che forse toccano. Ecco, e allora qualcuno, per esempio Sacconi, oggi la mette così. Dice, senta un po' Di Pietro, ma come? Togliamo le pensioni di reversibilità alle vedove e le diamo ai gay con la legge Cirinnà? Siamo proprio, no? Siamo proprio al colmo per Sacconi. Intanto... Ma che sia maschio, che sia femmina, la pensione di reversibilità di regola, e della logica, poi lascia stare chi ne approfitta, fai, dice, cioè, la pensione di reversibilità qual è? È qualcosa che si dà a chi ha convissuto per una vita con una persona che aveva una pensione che adesso, posto lui, non avrebbe neanche da mangiare, e quindi lo Stato garantisce comunque di poter continuare anche lui a sopravvivere. Che sia lui o sia una lei, ma quale cavolo è la differenza se questa è una vita e se la fianca a quell'altro e quindi come tale quindi reversibilità va bene ad avere una realtà, no. Cioè, lui dice lo tolgo alle vedove, lo toglie e lo dà nella stessa proporzione in cui chi ha convissuto ha vissuto gioia e dolore insieme all'altro. Sta parlando a uno che manco pensava di dover discutere, io ma fino a quando ero ragazzotto manco sapevo che cos'era l'omosessualità, ma forse adesso sentite dire, eppure mi rispetto sta gente, perché Gesù, ma per quello li rispetta, li rispetta anche a di noi. La natura le ha fatto in modo diverso da me, ma non per questo che siano handicappate, sono persone come me, magari molto molto meglio di me in tante altre cose, e per questo che diritto ho io di dire a quello tu siccome sei fatta la natura fatta diversa da me hai meno diritti di me, ma che cavolo di diritti ho io? Ma che cavolo di persona sono? No, hai capito Marione, qua c'è un Di Pietro su questo, non te l'aspettavi, così com'è che l'hai chiamato l'uomo della serra, molisano, e vabbè, ma che c'entra? Non è bene, capo della serra, io abito a capo della serra. Poi. Ecco perché. La pensione di reversibilità è un istituto immaginato in una società in cui le donne, come mia madre, per esempio, coppio restavano a casa ad allevare i figli, dando lavoro familiare dentro il contesto familiare, mentre il papà andava a lavorare. È uno schema classico in Italia di una volta, diciamo così, per cui la mamma faceva la casalinga, il papà lavorava. Alla fine il papà muore e la vedova ha bisogno di qualcosa come sostentamento e dunque alla pensione di vestibilità. Estendere questo istituto a un contesto, già immaginare che il matrimonio sia una cosa diversa da quella prevista dalla Costituzione, anche qui mi appello all'uomo di legge di Pietro, ma evidentemente la Costituzione va bene letta in una maniera o nell'altra, ma diciamo che abbiamo esteso questo istituto al soggetto, il che prova che però questo è il matrimonio, perché se estendi la pensione di vestibilità hai esteso il soggetto matrimoniale. Cioè tu non lo vorresti manco, quindi... Ma questa roba qui, ma porco Giuda, ma come si fa a non capire che in tutta evidenza non è la stessa questione? Non è la stessa questione. Non è l'elemento possibile che nella coppia omosessuale si creino questi meccanismi. Anche ma perché? Un'impennata di rapporti omosessuali al sud... Fidatevi, è il paese in cui abbiamo avuto migliaia e migliaia di gente che cieca, andava in bicicletta. Ma vedi, Marione, che però ma sei un po' ossessionato, ma le truffe ci sono in tutti i campi. E vabbè, e qualcuno farà anche la truffa dicendo c'è una relazione omosessuale. Questa cosa, questa cosa è più grave. Cioè, per te, la cancellazione dell'istituto della pensione di vestibilità per tutti. Tant'è che già adesso. Ma scusa, ma secondo te, se c'è una legge. Le parole di Sacconi sono relative al fatto che si vuole tendere a spostare dalla previdenza all'assistenza l'istituto della pensione. Ma secondo te, se c'è una legge. Mario, scusa, se c'è una. Lo pagherà la donna. Vabbè. Ma ti dico, se c'è una legge per cui le unioni omosessuali hanno. Se ci sarà la Cirinnà, mettiamola così. Cioè, non va bene che due conviventi dello stesso sesso, se vivono insieme, stanno insieme, hanno un'unione, chiamala come vuoi, ovviamente, non matrimonio. Cioè non devono avere i reciproci patti. Non è un matrimonio. E quindi non devono avere se la reversibilità. Cioè, vivono 50 anni insieme, poi uno muore e l'altro non deve avere manco mezza lira. È un po' discriminatorio però. Cioè, solo... Ma lavora quell'altro, non è una donna che ha fatto la casalinga. Ma anche adesso le donne lavorano, anche adesso non c'è più la casalinga che sta a casa, adesso le donne lavorano. L'istituto della pensione di vestibilità. E allora togliamolo, laddove la donna lavora togliamola anche nelle coppie eterosessuali. Perché il passaggio che fai tu è proprio il passaggio che vogliono costruito, allora togliamo. Ma no, ma lo dico per paradosso. Grande capolavoro avrai tolto anche questo diritto. Ma scusa, lo dico per paradosso. Tu dici nasce in un'epoca in cui la donna stava a casa, io ti dico la donna non sta più a casa e allora togliamo. E allora togliamo. E questo è esattamente il processo logico che hanno costruito. Vabbè. Esattamente questo. Allora togliamolo. Non lo so. Comunque devo dare le informazioni sul traffico, poi rientriamo. Adesso il magistrato. Poi il magistrato Di Pietro mi deve dire sta roba perché mi fa mi infoglia. La Costituzione. No. Adesso a parte la Costituzione gli chiederò tra un attimo anche sta storia Volta Gabbana, perché Di Pietro fu uno dei primi che mise le famose multe che poi il Movimento 5 Stelle ha messo, i 150.000 euro se cambi casacca, voglio capire che ne pensa tra poco. Brum brum brum, c'è il traffico. Milan, Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta a quei discorsi del taglio alla reversibilità o pensione in genere. Voi non è che fate incazzare i nonni o i pensionati, fate incazzare quelli che su quelle pensioni contano, come si incazzano i figli che tirano la carretta e non arrivano a fine mese. Non sono i nonni che si incazzano, è tutto quello che ci sta intorno che si incazza. La storia della diga, secondo me, come direbbe Fantozzi, è una cagata pazzesca. Se fosse vero, i militanti dell'ISIS l'avrebbero già fatta saltare. Eh sì, avete proprio ragione voi giornalisti. Zaza non doveva segnare. Zaza non ha segnato perché c'è stata la deviazione, per cui il gol era da annullare. Ecco, giustamente doveva finire a 0-0. Ma si erano messi d'accordo prima della partita sullo 0-0? Ciao Alessandro, l'ho sempre detto a me che te sei un figo. Te sei milanista, ma te sei un figo. Ciao, fa il bravo. Vabbè, centrale Zaza, movimento di Zaza su Koulibaly, poi il sinistro! Simone! Vedi qua ci abbiamo due gobbi, Antonio Di Pietro e Mariona Di Nolfi. Vedi, Mariona, non ti ho detto niente, mamma mia ragazzi. Che vuoi dire? Vuoi pure parlare? No, perché... Allora... 15 consecutive, no? Basta, adesso mi innervosisco io se parli di queste cose. Allora, Di Pietro, due cose. La reversibilità. Ma perché siete arrabbiate? Uno è Juventino e uno è Juventino e Napolitano. Del Napoli, così. Del Napoli chi? Io? No. Io tengo, perché vi arrabbiate? Io tengo il mio. Tengo con il mio. Con la Dinolfi è impossibile. Perché da 4 anni che se ne vincere qualcosa con me non ci riesce. Quindi sei rivolto al DDL Cirinna. Ho capito. Di Pietro, allora, sta roba da magistrato ci deve aiutare. Allora, questa cosa della Dinolfi dice la Costituzione, ma al di là di tutto, la reversibilità è una roba... perché guarda che ci ha scritto tantissime persone che dicono fanno bene, gente che dice mia zia, dei casi che ci hanno scritto proprio, mia zia guadagna, c'ha possedimenti, terreni eccetera, e prende 3.000 euro ancora da, praticamente una contessa, cioè casi così, di gente che prende uno sproposito rispetto al reddito di vita che hanno, quelli che, non vanno toccati. Che ci sia una rivisitazione dell'istituto della reversibilità per fare in modo che non ci sia approfittamento, è vero, che ci siano stati tanti approfittamenti sulla reversibilità quando si tratta di coniugi secondo l'attuale formula della famiglia, è vero. Detto questo, una volta stabilito che una coppia omosessuale e che esistono, è un dato reale, e stanno insieme 40 anni e che esistono, è un dato reale, bisogna dargli tutti i diritti, e che uno dei due se ne va, l'altro se si trova in una difficoltà, così come se dovesse trovare, se fosse stata donna invece che non omosessuale ma eterosessuale dell'altro sesso, sì. A me pare che quel diritto gli debba competere. Ma anche secondo me, cioè voglio dire, ma sono una coppia, vivo da 40 anni, ma che sono sfigati? Il problema, cioè, è accertare che sia una coppia che ha vissuto in uno stato di unione che sul piano pratico, sostanziale, sia uguale a quel che noi chiamiamo matrimonio. Per noi, quando chiamiamo noi, io mi sono sposato in chiesa, credo nel fiuto del matrimonio, è chiaro, per noi abbiamo, siamo cresciuti con questa idea di matrimonio. Man mano che i diritti civili avanzano, ci stiamo rendendo conto che ci sono rapporti di amore, di affetto, di dignità, di convivenza, anche se fra... Ma questa, guarda, su questo non ci sente, Mario. Non ci sente. È un diritto che va concesso per avere le stesse opportunità l'uno dell'altro. Dopodiché, io che diritto ho di dire io sì e tu no? Io non credo che la Costituzione, nella sua essenza intima, per cui è stata fatta della parità dei diritti, preveda una differenziazione tra... Sa su cosa si può far cassa Di Pietro? Fare come lei, che ha messo le multe a chi cambiava casacca. Questa sì, questa è bella, ma sai che con 336 che hanno cambiato in questa legislatura, a 150.000 euro a botta facevamo un po' di soldi, Guardi, che io come l'avevo strutturato io, non era la multa a chi cambia casacca, era strutturate come rimborso spese per le elezioni, cioè, resta il fatto che anche perché è vietato dare una multa per cambiare casacca. Parliamoci chiaro, sul piano teorico e sul piano del rispetto formale della Costituzione, perché ricordiamoci sempre che esiste una Costituzione formale e una sostanziale. La questione formale dice al primo articolo che tutti siamo uguali di fronte alla legge, quella sostanziale è sempre qualcuno lo mette nel sedere là. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Allora, sto dicendo, sul piano formale, questo dice una cosa importante, è più condivisibile quando i nostri legislatori l'hanno previsto, cioè vale a dire la libertà di voto, una libertà di coscienza di ciascun parlamentare, votare secondo coscienza. Questa, venivamo da un momento fascista, c'era necessità di questa legge affinché si garantisse a ogni singolo che stava dentro le istituzioni di rappresentare la voce intima di tutto il popolo, che non lo poteva rappresentare. Però qualcuno ne ha abusato di questa cosa. Dopodiché è arrivata la formula, vi faccio i calcoli miei, prova tu che provo io, prova tu che provo io, e non è più questo girare la casacca, non è più in nome, per conto di un'intima convinzione che lo fa per il mutuo, ma lo fa per mantenere il posto, per riavere il posto, per poter compravendere il voto e quant'altro. Allora a questo punto non è vero che esiste la libertà di voto, esiste la violazione della libertà di voto, sì, perché tu violi il tuo mandato per farti gli affari e tuoi, quindi una bella multa. Marione, almeno su questo sei d'accordo? Allora su questo tema manca un buco nella legge italiana, a partire da quelle costituzionali, che in altre legislazioni ci sono. Bene, cambia pensiero, è un tuo diritto, ma vattene a casa e fatti rileggere dal direttore se credi. A te che dici, Marione? No. Ma il principio costituzionale del parlamentare, che è parlamentare senza vincolo di mandato, ha un suo senso, che non è una. Perché nasce. Qui bisogna sempre stare dentro alle cose. Insomma, il parlamentare può o no essere libero dal vincolo di mandato, cioè dal vincolo di partito in Parlamento? Lo auspichiamo? O vogliamo il ha ragione chi proponeva la lista bloccata con i 100 camerieri dei capi partito che vanno a fare esattamente quello che viene indicato loro dai capi partito. Questo è l'altro risvolto della medaglia. Noi cosa vogliamo da un parlamentare? Sì. Che sia lì e faccia una valutazione su ogni cosa, oppure che esegua gli ordini del partito? Che ogni volta siete dentro a una contraddizione. Ma vi arrabbiate per le liste bloccate, per esempio. Liste bloccate sono esattamente quello che proponete voi, gente che entra in Parlamento rispetta gli ordini del partito, perché così il partito lo garantisce. E se no sulla direzione. Se no se ne va a casa. E se no se ne va a casa. Però sapete come la pensa Di Pietro? Facciamo a farsi i parlamenti? Di Pietro, sa chi diciamo solo i capi partito decidono fra di loro, no? Sa chi la pensa? No, sa chi la pensa come lei, Di Pietro? Sa chi la pensa come lei? Senta qui, Alessandra Mussolini. Chi viene eletto, al di là che non c'è la preferenza, chi viene eletto in una lista di centrodestra chiara e poi va a sostenere un governo di centrosinistra, non gli vuoi far pagare una multa? Perché non ha tradito il partito. Di Pietro come la Mussolini, come Alessandra Mussolini. Ma no, non eleggete i parlamentari, fate prima, non eleggete, è molto più semplice, eleggete solo i capi. Torno a ripetere, io sono dell'idea che il principio della libertà di voto sia un principio sacrosanto ed è una cosa, l'approfittamento e la ragione per cui uno lo fa è da scandagliare, perché obiettivamente queste 330 persone che hanno cambiato casacca, tutti per motivi nobili l'hanno fatto o per motivi convenienti? Scandagliare, che vuol dire? Cioè aprire un fascicolo se c'è un reato? Scandagliare come si fa in tante altre parti. Voi e se vai a sinistra va bene, se vai dall'altra parte no. No. Quello è carino. Di Pietro no, si fermi su questo editoriale molto stringato, perché il tempo è finito. Che devo dire, vi saluto intanto. Mariona di Nolfi, se incontri Vendola diccelo, che vuol dire che non è in America. Vi devo salutare e ringraziare, Mariona di Nolfi, direttore della Croce, e Antonio Di Pietro. Alla prossima. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, eccoci qua alle 7:18 minuti. Siamo pronti a leggere i giornali e a raccontare tante cose e tanti spunti che provengono dai quotidiani. Oggi vi ricordo che avremo ospite Stefano Parisi, che è il candidato per il centrodestra alle comunali a Milano. Così come avremo ospite anche uno dei questori del Senato, il tema che abbiamo affrontato anche ieri, a dire, ma insomma di questa reversibilità si parla, e per i senatori, e poi questa storia dei senatori che lascerebbero il cartellino lì, il loro badge, insomma quella roba lì che hanno infilata negli scranni per risultare presenti anche se sono assenti, e intascarsi così la diaria di 3.503 euro al mese. Che è sta storia? Ne parleremo più avanti, Ora i giornali. Martedì 16 febbraio i titoli. Il Sole 24 Ore apre su borse, bond in rialzo, sprint da banche e auto. Dopo i forti ribassi torna la luce sui mercati. Poi è il giorno in cui si inizia a votare sulle unioni civili e dunque il titolo principale per il Corriere della Sera è questo: unioni civili, l'intesa non c'è, fallisce la trattativa nel PD. E dunque il capogruppo Zanda dice inevitabile, la norma taglia emendamenti. Anche per il Messaggero, adozioni, l'ultima trattativa. La Stampa, unioni civili, l'accordo non c'è, la legge rischia. Poi l'attualità internazionale invece con la strage in Siria. Questa è la parola usata da Repubblica. Siria, strage negli ospedali, 5 nel mirino, bombardate anche 2 scuole, accuse a Mosca. Assad dice colpa degli Stati Uniti. Ci sono anche bambini tra le oltre 50 vittime. Pioggia di bombe è anche il titolo dell'Unità. Jet russi distruggono ospedali anche di Medici Senza Frontiere e scuole. 50 morti. Per Avvenire, bombe sugli inermi. In Siria colpiti 5 ospedali e 2 scuole. Saltiamo a Libero. Reversibilità nel mirino, così tagliano le pensioni alle vedove. Il governo vuole agganciarle all'ISEE. Si terrebbe conto di reddito familiare, casa di proprietà, risparmi e assicurazioni sulla vita. Risultato, molti sopravvissuti al coniuge potrebbero perdere il diritto all'assegno. Il Fatto Quotidiano invece ha un Renzi piglia tutto, come si è preso il potere in 2 anni. Il Giornale invece, canone Rai è caos. Anche il Manifesto si torna invece sulla Siria, la foto di una scuola distrutta o di un ospedale dalle macerie non si capisce. Il titolo è intervento chirurgico. Allora, come detto, lo abbiamo affrontato ieri il tema un po' con Oscar Giannino, la reversibilità, chi tocca le pensioni prende la scossa, lo abbiamo detto. In Italia. E infatti è partito, ancor prima di sapere se il progetto del governo è davvero chiaro, cioè quello di legare la pensione di reversibilità all'ISEE, oppure no, cioè se questo progetto c'è oppure no, ancora non è chiaro, ma la polemica è divampata, così all'italiana, polemiche, così tanto vale forse non fare nulla, non rimane sempre tutto uguale. Reversibilità, Poletti smentisce il taglio. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 15. Ha parlato il ministro del lavoro di interventi solo su situazioni anomale. Insomma, tutto nasce da questo disegno di legge delega del governo che vorrebbe condizionare le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali legate al reddito all'ISEE, l'indicatore che tiene conto dei guadagni ma anche di tutto il patrimonio, quindi polizze, risparmi, case. E allora si vedrebbe magari che ci sono dei superstiti ai coniugi, come ci hanno scritto, vi assicuro, tantissimi ascoltatori, casi di parenti che hanno, che magari hanno possedimenti, case, insomma un tenore di vita legato alle cose che hanno, ai patrimoni molto alto, e prendono ancora 3-4 mila euro di pensione di reversibilità perché il coniuge è morto, in genere il marito è morto. Eppure vendendo una casa o comunque mettendo a frutto questo patrimonio potrebbero vivere anche con 2.000, 1.500. Ecco, se si vuole toccare questi casi, magari emblematici, clamorosi, di storture, no, basta, è partita la polemica, appunto. Il blitz sulle pensioni, così titola il Manifesto a pagina 5, con intervista a Damiano, ex ministro del lavoro, che anche lui del PD, eppure dice la reversibilità deve scomparire dalla delega, basta togliere quelle poche parole all'articolo 1,1 lettera B. Il governo ci deve rassicurare, intervistato da Antonio Sciotto, così l'ex ministro del lavoro dello stesso partito di maggioranza, il PD. Ecco qui anche una pagina della Stampa, finisce sotto accusa la riforma del governo, ovviamente ne parla a lungo anche il Sole 24 Ore. Per il Giornale sono già reversibilità vedove espropriate, tagli fino al 50% degli assegni, molti dall'opposizione che dicono fanno cassa coi morti. Voi capite che il dibattito è tutto sull'idea di poter fare una cosa, niente, appena viene buttata lì un'idea partono le contraeree. Anche Sacconi Sacconi, ex ministro anche lui del lavoro, intervistato da Repubblica, intervistato dal Giorno, rilascia due interviste, intervistato dal Giorno da Alessia Gozzi, il ministro, l'ex ministro Sacconi dice: giù le mani dalle vedove, non si pagano così i diritti ai gay. E voi direte: ma che c'entrano i gay? Beh, articola Sacconi, sarebbe paradossale ora un restringimento dei criteri di erogazione nel momento in cui la legge Cirinna amplia la platea dei beneficiari alle coppie omosessuali unite civilmente. Una platea imponderabile e con oneri sottovalutati. Gli effetti potenziali sono stati calcolati su un arco di soli 10 anni, ignorando le regole di contabilità pubblica che vogliono la stima proiettata al tempo più lungo in cui si manifestano tutti gli effetti. Dunque, dice Sacconi, è paradossale che proprio mentre si parla di dare le pensioni alle coppie dello stesso sesso si toccano le reversibilità degli italiani. Comunque, staremo a vedere se questo dibattito potrà rompere questa cortina di fuoco e fiamme e essere un dibattito sereno e poi dire sì, è giusto oppure no, ci si è sbagliati. Oh, vorrei fare un salto in Francia perché Avvenire mette in pagina 3 questa notizia che riguarda un tema che divide gli animi molto spesso anche in Italia quando ne abbiamo parlato: la prostituzione. Perché Daniele Zappalà racconta su Avvenire a pagina 3 che è in arrivo una legge in Francia, l'annosa questione delle multe ai clienti. Così la Francia vuole abolire la prostituzione, fronteggiando un'annosa selva di stereotipi, ambiguità, pregiudizi, ipocrisie di ogni sorta. Scrive Avvenire: il Parlamento francese ha intrapreso nell'autunno 2013 una riflessione bipartisan che sembra ora sul punto di trovare un approdo legislativo definitivo. L'approdo legislativo, la legge, prevederebbe questo: per chi acquista atti sessuali è prevista un'ammenda di 1.500 euro accompagnata eventualmente da stage di sensibilizzazione sul vero volto della piaga della prostituzione. Boh, questa mi mancava, gli stage. Peter ride. Non voglio dire perché è preoccupato, primo perché sta in Italia e secondo perché non mi permetterei mai di dire che è preoccupato, anzi totalmente mi sento di escluderlo. Insomma, se vai con una prostituta in Francia arriva una legge che prevede l'ammenda di 1.500 euro con lo stage di sensibilizzazione sul problema, questo sì, è molto grave, dello sfruttamento delle donne o degli uomini, insomma, sfruttamento dei corpi. Però lo stage mi fa, non lo so, mi fa un po' sorridere, ancorché il problema sia molto grave, ovviamente, quello dello sfruttamento. Oh, invece qui, che dire, mi ha colpito questa notizia su Repubblica, che riguarda gli imam e quindi i leader religiosi musulmani e Milano. Zita Dazzi, a pagina 4 di Repubblica, racconta questa storia. Imam a lezione di rispetto delle donne. A Milano c'è il primo corso di formazione per combattere maltrattamenti, discriminazioni e matrimoni combinati. Imam preparati con nuovi corsi di formazione per insegnare ai fedeli il rispetto verso la donna, formati per parlare con chiarezza a padri, fratelli, mariti anche nei sermoni del venerdì, il giorno della preghiera dell'Islam. Parte a marzo a Milano, davanti a assessori e consiglieri comunali, il primo progetto italiano promosso dalla comunità islamica per difendere le donne musulmane dagli abusi e dalle discriminazioni che possono subire nel loro ambito familiare. Una campagna, un piano di azioni concrete per scelta del coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Brianza. E beh, insomma, un'iniziativa interessante, Repubblica la mette in pagina 4 con ampio risalto. Mentre eccoci qua, saltare e piombare sulla notizia che mi fa pinzare della giornata, è la notizia se siete al volante, come al solito, se siete alla guida di una macchina, da mani sul volante, appoggiate anche le tazzine del caffè, per favore. Perché c'è da parlare della storia di un mito della politica altoatesina, anzi no, già sbagliato. Sud tirolese. Eva Klotz, l'anti-italiana per eccellenza, che abbiamo invitato, forse domani sarà ai nostri microfoni. Eva Klotz è il vitalizio d'oro, la donna che si è sempre fatta fotografare, anche sul Corriere della Sera c'è la foto oggi di Südtirol ich nicht Italien, pronuncia da zero o da due e mezzo, ma insomma il Südtirol non è Italia. Questa è la foto su cui campeggia il faccione di Eva Klotz. Non è Italia il Südtirol, secondo lei, ma è italianissimo lo stipendio vitalizio, la pensione che Eva Klotz si intasca come ex consigliere della provincia di Bolzano. 946.175 euro. Tra l'altro, come scrive Claudio Del Frate, a pagina 19, voi dite, e che pensione è? Non si paga al mese la pensione delle persone normali? No! In Trentino Alto Adige, secondo un procedimento, un meccanismo non di immediata comprensione, ma riassumibile così, come scrive lo stesso Corriere, maturati i diritti alla pensione, gli ex amministratori possono scegliere se incassare un tot mensile oppure farsi pagare tutto, una volta per tutte, l'intera aspettanza. Sapete che bello? Anche voi potreste farlo. Ah, in base all'aspettativa di vita, andate in pensione domani, dite, avete 68 anni, che ne so, l'aspettativa è altri 20, datemeli tutti subito, tutti, chiedeteli all'INPS, tutti subito, vedete un po' se ve li danno. Poi magari non succederà, ma uno muore l'anno dopo e intanto se ne è presi per tutti i possibili 20 anni di aspettativa di vita. Così Eva Klotz si è intascata 946.175 euro, non solo lei, ovviamente tutti gli ex consiglieri, però lei, insomma, è un'anti-italiana e lei dice: se la mia terra non fosse stata ceduta all'Italia non avrei fatto politica e non capisco le polemiche, non è generosità italiana, è stata applicata una legge e quei soldi mi spettano. Anzi, non mi sento di aver rubato nulla, beh, infatti nessuno di questo l'accusa, in realtà avrei potuto prendere anche più soldi, perché dopo 4 legislature avevo già maturato il diritto alla pensione, ma ne ho fatte 6 di legislature prima di ritirarmi. Insomma, Eva Klotz e il vitalizio d'oro alla passionaria dell'Alto Adige, anti-italiana, un bel assegno dall'Italia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, a bronza coerta dell'informazione. E va bene, grazie cara ascoltatrice, come te moltissimi ci devono mandare al 349-238-6666 il loro audio, la loro sigla. C'è chi strabuzza gli occhi, 946.000 euro di pensione, sì, 946.175 euro maturati in 6 mandati da Eva Klotz. Ci sono anche altri, adesso tutti si accaniscono contro Eva Klotz, ma insomma credo che l'elenco sia pubblico. 946.000 euro di vita, effettivamente come pensione non è male, 946.000 euro. Un ascoltatore me l'ha mandato con 15 punti di domanda. Ringrazio anche Roberto da Bolzano che mi dice bella pronuncia, vabbè insomma. Grazie sulla fiducia. Allora, è il giorno delle votazioni, si inizia oggi pomeriggio sulle unioni civili. Il tono diventa un po' da cantilena perché ce la stiamo portando avanti come dibattito sui giornali. Comunque la cosa importante da sapere è che non c'è accordo nel PD, nel senso che rimane l'emendamento premissivo ribattezzato Super Canguro. È l'emendamento del senatore Marcucci, senatore renziano. Se venisse approvato, taglierebbe via la maggioranza degli emendamenti che gravano sulla legge Cirinnà. È un emendamento premissivo. In premessa c'è tutto per bypassare gli altri emendamenti. E potrebbe essere l'arma renziana, diciamo, per appunto abbattere tutti gli altri emendamenti, soprattutto quelli che mirano a cambiare la stepchild adoption. e passare direttamente all'approvazione della legge. Certo che però molti del PD, i cattolici soprattutto del PD, sono contrari a questo super canguro, minacciano addirittura alcuni dello stesso PD di non votare l'articolo sulla stepchild adoption, che tra l'altro l'Accademia della Crusca ha detto bisognerebbe chiamare il configlio, l'adozione del figliastro, del configlio, la configliatura. Mamma mia, oh, c'è anche un problema di come. Comunque, diciamo che gli articoli interessanti sono: dopo che Maria Teresa Meli ci fa sapere che Boschi, il ministro Boschi, ai suoi dice la stepchild adoption è giusta perché è nell'interesse dei bambini. Questo a pagina 9. Ma vi segnalo, intanto sul Corriere della Sera, sempre della serie A volte i magistrati anticipano la legge, la storia di Eleonora Beck e Liz Joffe. Sono due donne. In America sono regolarmente sposate, hanno due figli, due figlie. Anzi no, un figlio e una figlia. Sono una coppia da 21 anni, sono sposate nel 2013, sono arrivate in Italia. E quando sono arrivate in Italia, come racconta Elena Tebano a pagina 11 del Corriere della Sera, Eleonora Beck e sua moglie Liz Joffe, sono due donne, da Portland, Stati Uniti, sono saliti in aereo che erano una famiglia, sono scese a Bologna e si sono ritrovate madri single, ognuna con un bambino, tra loro neppure parenti. Allora hanno fatto ricorso e si pronuncerà la Corte Costituzionale il 24 febbraio, quindi nel pieno del dibattito del DDL Cirinnà, e si potrebbe così arrivare una svolta sulla legalizzazione della stepchild adoption. Capite? Cioè ciò che la legge non ha ancora tutelato e potrebbe tutelare se passasse la legge Cirinnà, potrebbe già essere invece sancito da una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda due donne. Ma d'altronde che la società in qualche modo sia precursore, non sto dicendo sia avanti nel senso positivo, non sto dando un giudizio, ma comunque anticipi i tempi delle leggi, è chiaro anche nell'articolo di Maria Corbi, pagina 2 della Stampa. Due papà gay e due mamme lesbiche, l'ultima frontiera sono i figli condivisi. Maria Corbi fa un bel lavoro, va a studiare il sito www.cogenitori.it. Cogenitori è col trattino, co-genitori.it. In questo sito si incontrano persone che hanno voglia di diventare madri e padri, ma manca loro un partner o la voglia di una relazione stabile. Sono molte le coppie gay che in questa comunità cercano chi realizzerà il loro sogno di famiglia con prole. Funziona così: una coppia di uomini si mette in contatto con una coppia di donne e insieme decidono di fare un figlio. Quindi ci sarà un genitore biologico per parte. Il bambino avrà due famiglie, come avviene spesso nei divorzi, e si può immaginare che il tempo venga diviso proprio come per le coppie separate, affido condiviso, vacanze weekend alternati, settimana equamente spartita, magari feste comandate passate tutte insieme allegramente. Insomma, è questa la nuova frontiera? Si chiede la Stampa, pagina 2. E poi c'è il caso Niki Vendola. Questa è una notizia che, se confermata, è un po' una bomba atomica sulla politica italiana. Perché Lello Parise lo racconta su Repubblica, pagina 10, dov'è Niki Vendola? Secondo alcuni rumors, secondo alcune indiscrezioni, gli amici dicono Vendola sta per avere un figlio con il compagno, forse in Canada, forse in California, ovviamente ricorrendo alla maternità surrogata, l'utero in affitto, come volete chiamarlo. È così, sta per nascere. Niki Vendola, cattolico, gay, diventerà papà, giura Repubblica. Gli amici del leader di SEL ed ex presidente della Puglia a bassa voce confermano la notizia che rimbalza in Parlamento. Nessuno si vuole esporre. Anche se fosse, sono fatti suoi, dicono alcuni. Altri addirittura fanno sapere che il lieto evento potrebbe verificarsi nel giro di una manciata di settimane. Tutti ne parlano da due mesi. Qualcuno dice che è in California, altri che è in Canada, visto che il compagno di Vendola è canadese e l'utero in affitto in Canada è consentito. Insomma, dov'è Vendola? E sta per avere un figlio, prima Dinolfi ha detto per comprare semmai un figlio, vabbè, insomma, mettete il verbo che volete, ma Vendola sta per diventare papà? Questo si chiede Repubblica. È tutto ciò che Mauro Meazza sa come risposta. Mauro, buongiorno. Vuoi buongiorno. Dircelo tu? No, purtroppo, no. Purtroppo ecco. No, non sono informato sulla vicenda di Niki Vendola. Se vuoi provo a chiedere, ma non penso di avere delle fonti migliori. Hai una pensione da 946.000 euro come Eva Klotz? Così poco? Perché al mese vuoi dire? No, dai, una tantum. Una tantum, no, ma già... Devo dire, ci sto dentro in quella cifra con lo stipendio mensile. Ma anche tu potresti magari sentire per un aumento, perché vedo dal Sole 24 Ore che i dati di Radio 24 per il 2015 sono stati buoni, nonostante il nostro siparietto della mattina. C'è stata una crescita notevole. Ma perché fanno il conto generale, non calcolano questi 3-4 minuti. No? Meno si vede che riesce a resistere la radio, soprattutto i conti della radio. Sì. Comunque ci sono tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi, insieme a molte altre cose. Ad esempio, è stato firmato dal Presidente della Repubblica il decreto legge sulle BCC, sulle banche di credito cooperativo, e anche che contiene anche la GACS, sai? GACS. Certo, l'ho imparato da te. Insomma, la garanzia sui crediti deteriorati, o NPL, visto che oggi sembra che tu ti sia messo a parlare tedesco, inglese. Sì, tedesco. NPL, allora possiamo dire. NPL. Comunque, tutti i dettagli per ricordare cosa è contenuto in questo decreto nelle prime pagine del Sole 24 Ore. Poi il canone RAI, ne parlavamo ieri mattina, caro Alessandro, vedo che appunto ieri c'è stato un ulteriore intervento delle imprese elettriche che non sembrano contentissime di farsi carico. Ne riferiamo naturalmente, avevamo già anticipato la questione ieri, ne riferiamo oggi con Valentina Meris nelle pagine di Norme e Tributi che tu leggerai religiosamente. Bravissimo. Mi scrivono tra l'altro Meazza is Milano. Va bene, non capisco bene. Meazza è Milano. Meazza è Milano, questo vuol dire. Va bene, uno slogan magari anche elettorale. Potremmo consigliarlo ai candidati. E avremo Stefano Parisi tra poco, vediamo. Ecco, prova, vedi se gli piace. No, volevo dirti però, oltre alle pagine di Norme e Tributi, leggi attentamente anche le pagine di Imprese e Territori, perché ad esempio, oltre alla questione della Cina, che potrebbe essere riconosciuta come economia di mercato e sarebbe una cattiva notizia per noi, ieri c'è stata proprio una manifestazione a Bruxelles, ne riferiamo appunto in Imprese e Territori, c'è anche la questione della CIG, della Cassa Integrazione, che a gennaio è, ahimè, risalita. È un effetto delle nuove normative o proprio invece un segnale di crisi? Ma vedi un po', leggi nelle pagine di Imprese e Territori, comunque quasi 13% in più, e non è, per dir così, la prima occhiata una buona notizia. Ti voglio anche dire, essendo naturalmente martedì, che oggi troverai la il pagina... Il condominio. Bravissimo. La pagina di condominio, caro Alessandro, dice che se non paghi le spese condominiali... sempre mi piace ricordarti questa cosa, che devi pagare le spese condominiali. Ti ringrazio, ma guarda, ecco, che è tutto in regola. Che fai sfoggio di pauperismo con i tuoi due eurini. Perché il tuo debito può anche essere ceduto a terzi, cioè il condominio lo può dare a qualcun altro che poi si incaricherà di chiedertelo, ma ti spieghiamo tutto come si deve nelle pagine di Norme e Tributi. Infine si fa per dire, perché molte altre sarebbero le cose che ti vorrei dire, ma il tempo fugge e non si arresta un'ora. E infine ti voglio ricordare che domani, con il Sole 24 Ore, lo speciale del mercoledì allegato al Sole sarà dedicato alla riforma degli appalti. Hai preso nota? Ho preso nota. Bravissimo. E allora, tutto ciò premesso, traffico! Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Te te sveglia la mattina e te lesi giornai con Alessandro Milan. E a lei, cari ascoltatori, che bello questo viaggio nell'Italia, anche nei vari dialetti, nei vostri modi di parlare che mi fate fare con queste vostre sigle che continuate a mandare al 349-238-6666 via WhatsApp, mi raccomando, con audio perfetto come questi ascoltatori. Allora, Allora, oggi il Fatto Quotidiano ha una pagina, una prima pagina e poi due pagine interne, pagina 2 e 3, piene di faccine, di foto. Sono per il Fatto la dimostrazione di un Renzi piglia tutto. Tutti gli amici piazzati in due anni nei gangli dello Stato e dell'economia, poltrona per poltrona. Dalla RAI, la Cassa Depositi e Prestiti, l'ENI, le Poste, Eterna, i servizi segreti, Palazzo Chigi, all'ANAC, Equitalia, ANAS, Enel, secondo Finmeccanica, Ferrovie, secondo il Fatto Quotidiano, con queste foto. E tra l'altro l'inchiesta di Stefano Feltri e Carlo Tecce è un uno continua, dunque immagino che nei prossimi giorni ci saranno dei seguiti. C'è l'elenco di tutte le poltrone assegnate in questi due anni per nomine governative e che sono riconducibili a Renzi, tutti gli amici piazzati da Renzi. L'inchiesta del Fatto, così il Premier in due anni si è preso l'Italia. Il Fatto Quotidiano, per la verità, continua anche la questione della multa ai Volta Gabbana, diciamo così, per far capire di cosa stiamo parlando, e cioè quei politici che cambiano casacca durante la legislatura sono già 338 in questi due anni, 338 i cambi di casacca, gente che è entrata in Parlamento o alla Camera o al Senato con un partito e nel frattempo ne ha cambiato uno o più di uno, visto che riguardano 132 deputati, 117 senatori, alcuni hanno cambiato più volte partito, ecco perché i cambi di casacca sono 338. E allora c'è questo articolo di Andrea Piazza, a pagina 8, un italiano su due è favorevole alla multa. La multa, sapete, è la sanzione che il Movimento 5 Stelle prevede facendo firmare i candidati, per la verità, alle comunali, ma anche all'Europarlamento, 150.000 euro se uno danneggia l'immagine del partito. Comunque, un italiano su due, secondo il Fatto Quotidiano, secondo questo sondaggio, sono favorevole a questa multa. Tra l'altro, il 5 Stelle è oggi sui giornali perché sono tutti consultabili i video dei circa 200 candidati che a Roma puntano a carica, come si chiamano, le comunarie, per essere considerato il candidato del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma. E ci sono per la verità 209, scrive Repubblica, gli autoritratti di grillini, gente comune, da gente di tutte le professioni. Però Repubblica si concentra per esempio su uno che sembra il sosia di Checco Zalone, oppure la psicologa che si presenta senza trucco, Roberta Grilli, perché lei dice così, la casalinga madre e moglie per scelta, la disoccupata, insomma c'è un po' tutto, e parteciperanno al ballottaggio in 10. I favoriti però, racconta Repubblica, sono De Vito e Raggi, cioè i consiglieri uscenti del Movimento 5 Stelle. Questo per quel che riguarda il comunale. Tra l'altro noi avremo ospite Stefano Parisi, candidato per il centrodestra a Milano. Questa alle 8.40, minuto più, minuto meno. Per quel che riguarda l'attualità internazionale c'è molto, ovviamente, molti articoli ancora, purtroppo articoli che raccontano la morte di civili, di inermi, di bambini, che proviene dalla Siria, dove c'è stato l'inferno dal cielo sui feriti di Maarat, sbalzati in aria con le flebo in vena. Questo è il titolo terribile del reportage di Lorenzo Cremonesi a pagina 3 del Corriere della Sera. Sale operatorie sventrate da due missili, poi la strage anche sui soccorritori. E l'accusa è questa: è stata un'azione deliberata. I testimoni sul posto raccontano e documentano con le immagini diffuse dai loro portatili di feriti scaraventati dai letti con le flebo ancora in vena, un inferno di macchinari danneggiati, lenzuola e camici insanguinati, vetri infranti, camerate e sale operatorie sventrate dalla potenza degli spostamenti d'aria. Scenari di uno degli attacchi contro gli ospedali in Siria, il più grave contro quello di Maarat al-Numan. Qui due missili provocano la maggioranza delle vittime e i danni più gravi. I piloti degli aerei che ha sparato, molto probabilmente russi, e dell'aviazione fedele al regime di Bashar Assad, visto che sono loro a operare nella Siria settentrionale, avevano ordini specifici in merito. Questa è la denuncia di dirigenti di Medici Senza Frontiere al Corriere della Sera. E dunque si racconta ancora di morte in Siria e nonostante ciò c'è poca anche attenzione a quello che sta succedendo da anni in quel paese. Tra l'altro ci sono molti articoli anche relativi ancora alla morte, all'uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore italiano in Egitto. L'articolo più interessante è di Alessandra Rizzo, ve lo segnalo sul Stampa, pagina 10. Regeni a Londra lavorò un anno per un'azienda di intelligence, la Oxford Analytica, messa in piedi da un ex funzionario americano, tra l'altro implicato nel Watergate, quindi nella vicenda che fece cadere poi il presidente Nixon. Insomma, un ulteriore tassello in questa storia molto, molto complicata. Dai, saltiamo alla carta costa. Oggi la carta costa è la pagina più inutile che ho trovato sui giornali. Sto entrando già nella parte della mia gattina Zen, perché, cara Zen, oggi la Stampa racconta in prima pagina con Alberto Mattioli che esiste, domani è la giornata del felino, no? La giornata del gatto, e allora esiste un'isola, si chiama Aoshima in Giappone, dove ci sono 22 residenti umani e 120 gatti. Oh, cat power! Finalmente la Stampa dedica una pagina a questo, cara Zen. Ti voglio portare ad Aoshima. Gliel'ho detto anche, ti porta ad Aoshima, Zen. Lei, Zen, ti porta ad Aoshima. Sono tutti gatti, lei ha fatto miau. Ma porcaccio. Ma chi se ne frega?